Uno dei fondatori del blog Scandalo Italiano è Luca Carlucci, che saluto, benvenuto a 2024. Salve a tutti. Per quale motivo avete pensato di creare un blog, tra l'altro con parecchi contributi? Allora, è nato tutto in maniera molto molto spontanea, nel senso che il portale Italia IT era una chimera del web italiano, è stato messo in cantiere 3 anni fa con questo stanziamento favoloso di decine di milioni di euro, si parlava di 45 milioni di euro, senza che si vedessero risultati. Quindi per 3 anni ogni tanto veniva fuori questa favola di questo portale, online con amici, con colleghi, così si teneva d'occhio questa cosa, ridendone un po', era un po' una barzelletta. Alla fine, quando il febbraio scorso è uscito, ovviamente siamo tutti corsi a vedere questo portale delle meraviglie, trovandoci davanti un oggetto comunicativo di qualità infima, se non ridicola. A quel punto è venuto veramente istintivo di dire: beh, questa volta non facciamogliela passare così liscia, nel senso, finché si costruisce un ponte, un'autostrada, noi non siamo ingegneri, non possiamo entrare nel merito dei budget. Trattandosi di un sito web, cosa di cui chiunque si occupi di web, sia da appassionato che per lavoro, si rende conto dei budget, delle spese, del lavoro che ci può essere dietro, era talmente lampante il risultato scandaloso che abbiamo detto: beh, tiriamo su questo blog al volo. È un blog su piattaforma gratuita, ci abbiamo messo 5 minuti a tirarlo su con altri 3 amici. Apriamolo a tutta la comunità del multimedia italiano, per denunciare questo scandalo, denunciare in maniera estremamente precisa, puntuale e di qualità. Cioè, quello che volevamo erano contributi di qualità, quindi analisi, ricostruzioni storiche, analisi dell'accessibilità, analisi del design, analisi dei contenuti testuali. E senza che noi ce l'aspettassimo, questo piccolo progetto nato così spontaneamente ha ricevuto tantissima attenzione e nel giro di 2 o 3 giorni avevamo migliaia e migliaia di visitatori e migliaia e tantissimi contributi che ci venivano, segnalazioni, articoli, e piano piano il blog si è arricchito. Attualmente i suoi contenuti sono composti da più di 40 persone, quindi questa, diciamo, è la premessa. L'ho detto altre volte e lo ripeto oggi, per rendersi conto di questo scandalo, di quanto la pubblica amministrazione sia stata in questo caso incapace di costruire un portale che possa portare questo nome, basta appunto digitare www.italia.it e vedere appunto quanto brutto, quanto poco navigabile e veramente vergognoso sia questo sito internet, anche se alcune pennellate possono farlo sembrare bello, ma in realtà è veramente una cosa criticabilissima. Detto ciò, quindi lasciando alla navigazione tutti i nostri ascoltatori, per quale motivo Italia.it può essere definito uno scandalo? Perché non è un sito internet all'altezza delle aspettative, all'altezza di un portale internet di livello internazionale? Beh, allora, i motivi sono veramente tanti, nel senso che il portale presenta delle falle, delle mancanze di qualità su tutti i livelli. Diciamo che quello che andò online sul primo momento, quindi accompagnato tra l'altro da discorsi un po' pomposi sulle magnifiche sorti progressive del rilancio del turismo, dell'immagine dell'Italia nel mondo, eccetera, era veramente un oggetto letteralmente ridicolo da un punto di vista internet, nel senso pesantissimo, con delle intro flash di qualità ridicola, con uno pseudo tenore che cantava un'arietta stupidissima, una cosa veramente impresentabile. Ovviamente in questi mesi di critiche serrate sono stati apportati dei miglioramenti, tra l'altro in un periodo quando sul blog Scandalo Italiano usciva un post di analisi sui contenuti testuali con tutti gli sfondoni clamorosi, il Monte Rosa in Piemonte, Napoleone nato all'isola d'Elba, insomma siamo a questi livelli di qualità dei testi, dopo 15 minuti sul portale in diretta venivano corretti tutti i testi relativi agli errori da noi segnalati. Quindi il blog Scandalo Italiano in realtà ha condotto una opera di debugging di massa molto notevole. Oltre a questo si può dire che in linea di massima è un sito morto, nel senso che alla fine della fiera si tratta di un grande stock di schede De Agostini datatissime, quindi degli anni 70 e oltretutto del tutto imprecise, assemblate insieme alla Bella e Meglio senza nessun tipo di trasversalità, di dinamicità al di fuori di qualsiasi logica del cosiddetto web 2.0, quindi un insieme di pagine morte con dei malloppi di testo, tra l'altro formattati anche male, che descrivono le regioni, le città, i paesini, eccetera, eccetera, con appunto infarciti di tanti sfondoni. Poi c'è un tool per creare dei tragitti, diciamo, attraverso una mappa dell'Italia, pesantissimo e per nulla funzionale, di cui io stesso ho fatto un'analisi da utente, l'ho chiamato una specie di vergine di Norimberga applicato al turismo, e poco altro, insomma, questo è il sito nazionale del turismo attuale, senza contare che per quanto riguarda l'aspetto più clamorosamente scadente, che è la qualità dei testi, noi ci siamo concentrati soprattutto sulla versione in italiano, ma ovviamente è un portale che prevede versioni in molte lingue, attualmente sono altre 3 lingue, in futuro dovrebbero essere 8. Ebbene, su quella inglese dei nostri collaboratori madrelingua hanno condotto delle analisi rilevando una qualità della lingua inglese proprio a livello di grammatica e di sintassi scandalosa, vergognosa, da farsi ridere dietro. Quindi nella versione internazionale agli sfondoni, diciamo, di contenuto già presenti si somma anche una qualità formale del linguaggio pessima. Ricordiamo che per questo portale, per questo obbrobrio, sono stati allocati, diciamo così, perché non tutti sono stati spesi al momento, 45 milioni di euro. Non so se... Prego. In realtà, come abbiamo appurato recentissimamente dal governo, per la prima volta il governo, diciamo, si è interfacciato direttamente con noi, questo è il responsabile della comunicazione del governo, che si chiama Lelio Alfonso, al quale ho sottoposto una serie di voci di spesa, che sono quelle che noi abbiamo ricostruito in 5 mesi frugando il web in ogni pertugio per cercare di ricostruire tutta la storia del portale. Ho sottoposto tutte queste voci di spesa per chiedere conferma se questa era la situazione. Insomma, complessivamente attualmente sono stati allocati 58 milioni di euro, questo è quanto è stato destinato al progetto. Quindi ancora peggio. Sì, esatto, di cifra impegnata, che significa comunque destinata a una voce di spesa che sia stata erogata o meno ancora, siamo sui 30 rotti milioni, 33 milioni, quindi di cifra libera da 36 milioni sono stati impegnati, di cifra libera, quindi ancora da decidere come spendere, rimangono più o meno 22 milioni, questa è la situazione. Voi sicuramente avete analizzato anche altri siti internazionali. Faccio una domanda: su cosa dovrebbe essere un portale del turismo nazionale e che cosa dovrebbe agevolare, a dove dovrebbe portare il turista, il potenziale turista? Senti, questa è una domanda a cui, diciamo, io in teoria non ho titolo per rispondere, in quanto non sono un esperto di turismo né di marketing turistico. È vero che sul web, successivamente all'uscita del portale, si è innescata questa marea di polemiche che ha riguardato un po' tutti gli aspetti, tra cui anche questo qui. Tra l'altro c'è stata un'iniziativa notevole che si chiama Ritalia, cioè un insieme di esperti di web, di turismo, che si uniscono spontaneamente per cercare di proporre un nuovo progetto di portale, e questo è successo a Milano nell'aprile scorso, quindi è un aspetto che è stato, diciamo, abbastanza discusso. Quello che è sicuro è che dovrebbe essere comunque un progetto che intanto si avvale appunto di quelle linee guida che vengono riconosciute al cosiddetto web 2.0, quindi contenuto generato dagli utenti, dinamicità, possibilità di navigazione trasversale, agili, di poter personalizzare le informazioni, tutti aspetti che mancano totalmente. Senza contare poi questo buco nero, questo aspetto misterioso di questo portale, che è il seguente: quando esso venne messo a progetto e ci fu lo studio di fattibilità e tutto e vennero allocati i soldi, il suo punto di forza, quello che addirittura veniva anteposto, diciamo, alla sua qualità turistica, era il fatto di avere una piattaforma di booking mega galattica, cioè di rebooking, si intende di prenotazione di alberghi, eccetera, eccetera. Online, esatto. Doveva essere una piattaforma di prenotazione nazionale che faceva da filtro fra tutte le entità possibili italiane, alberghi, pensioni, bagni, linee, che sarebbe una ottima idea, e il turismo. Ottima, sì, e anche un po', diciamo, come dire, almeno così a occhio e croce, forse un po' megalomane, nel senso, non credo esistano dei filtri nazionali in nessun'altra realtà così come erano stati progettati. Comunque è certo che un sito del turismo dovrebbe comunque prevedere delle funzionalità di organizzazione diretta del viaggio, se no ha un'utilità veramente relativa, se no è solo una guida turistica online. Insomma, questo qui era il punto di forza. Che è successo? È successo che la piattaforma di Booking era espressamente prevista nel contratto di appalto per la realizzazione del portale, ovviamente, era il suo punto di forza, è sparita, non c'è più, non si sa che fine abbia fatto, non si sa dov'è, perché non è stata più fatta, si sa solo che a un certo punto è sparita, e tra l'altro pur essendo prevista esplicitamente dal contratto di appalto, il che è veramente strano. Nessuno ne parla, nessuno dice se verrà fatta, non verrà fatta, perché non è stata fatta, non si sa nulla. Sì, sicuramente i responsabili di questo portale si sono infilati in un vicolo cieco molto difficile da gestire. Come sempre, quando si parla di pubblica amministrazione, sempre complesso trovare le responsabilità dirette, ma al di là delle responsabilità, chi ha lanciato l'idea di questo sito internet e qual è l'entità, che sia un ministero o altra entità, responsabile della realizzazione? Beh, diciamo che il progetto nasce, la paternità del progetto, dell'ex ministro dell'innovazione Lucio Stanca, il ministro dell'innovazione del governo Berlusconi. È lui, diciamo, colui che ha pensato questo portale, lui che inizialmente voleva 140 milioni di euro, perché questa era la sua richiesta nello studio di fattibilità, è lui che ne ha messi a fabbisogno 90 ed è lui che ne ha raggranellati 58 finora. Il portale è stato, la realizzazione della piattaforma tecnologica, quindi diciamo del sito web tecnicamente inteso vero e proprio, è stata data con un appalto gestito da Innovazione Italia, che è un ufficio, una società controllata di Sviluppo Italia, che è questo mega baraccone statale di cui ha parlato anche Report, che dovrebbe occuparsi dello sviluppo delle imprese, eccetera, eccetera, eccetera. L'appalto è stato vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da IBM, che vabbè, non ha bisogno di presentazioni, ITS, che è una società di Napoli, che è quella che ha curato i testi, e Discover, che è una società austriaca che si occupa espressamente di portali turistici ed è quella che probabilmente avrebbe dovuto fare la piattaforma di booking online di cui si parlava prima, che non c'è stata, quindi il ruolo di Discover attualmente non si sa qual è stato. Questa è la storia. Poi il portale è stato, i lavori sono iniziati 3 anni fa, per 2 anni non se ne è saputo più nulla, poi c'è stato il cambio di governo e il nuovo governo si è ritrovato l'eredità del lavoro svolto dal governo precedente. Anche per circa un anno, quindi da quando è entrato in carica il nuovo governo fino al febbraio successivo in cui è stato lanciato il portale, non si è saputo nulla di preciso, finché non si è visto il portale esattamente com'era. E la cosa che ha veramente fatto cadere le braccia è stato il risultato, per cui anche il nuovo governo ha delle precise responsabilità, nel senso che non si è reso conto, io temo per una mancanza di competenza spaventosa, della qualità del prodotto che stavano mandando online. Cioè Rutelli ci ha messo la sua faccia su quel prodotto e nessuno gli ha detto: guarda che stai per andare a fare una figuraccia storica. Sì. E il fatto che nessuno se ne sia reso conto, io lo trovo quasi incredibile, insomma, non so spiegarmelo. Ecco. Sì, è vero, questo passerà effettivamente alla storia. Bene, io ringrazio Luca Carlucci per essere stato con noi, ma soprattutto lo ringrazio per il lavoro che lui e tante altre persone che potete leggere sul blog Scandalo Italiano state facendo, avete fatto e farete anche nei prossimi mesi. A presto. A presto, ringrazio a te e a tutti.